Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, lo scontro tra Berlusconi e Fini rischia di cambiare il corso della politica italiana? Oppure si risolverà tutto con le solite tempeste in un bicchiere d'acqua? Fiorenzo. Caro Fiorenzo, diceva Woody Allen che la cosa più difficile da prevedere è il futuro. Ma in questo caso, come in tanti altri casi, il futuro è nelle mani degli uomini. E in politica spesso il cammino non è sempre lineare, ma si muove anche con salti e cambi di alleanza difficilmente prevedibili. Vi è da dire che l'Italia in questa fase di tutto ha bisogno, tranne che di un nuovo periodo di instabilità politica, di una campagna elettorale, di scontri sugli uomini, di promesse destinate in gran parte a non essere mantenute. E allora vi è da sperare che si torni a parlare di cose concrete, vi è da sperare che la politica assolva il suo dovere, guidare il paese valorizzando le potenzialità di tutti. Le ultime elezioni hanno dimostrato che il rischio di un distacco dei cittadini dalla politica è sempre più forte. È un rischio da evitare. Ed è questa la responsabilità più importante in questo momento per chi fa politica ai più alti livelli. Vorrei dire all'ascoltatrice che è intervenuta alla vostra radio qualche sera fa, la signora Francesca di Varese, ossessionata da tutto ciò che fa pensare a Berlusconi e adoratrice della Toscana, che le basterebbe un periodo di pochi mesi di vita quotidiana in Toscana per diventare, oltre che ossessionata, anche isterica. Questa regione, chissà perché idealizzata da chi non ci vive, è un disastro amministrativo, organizzativo, un'ecatombe dell'inefficienza. Qui la mafia rossa lavora indisturbata, stendendo una rete di delazione e di sospetto verso chi si dichiara contrario al regime di sinistra. Qui l'ideologia rosso-verde sta distruggendo l'ambiente con la fissazione delle pale eoliche. Le amministrazioni pubbliche sono ricettacoli di incompetenza e assenteismo, dove troneggiano i ritratti del Che Guevara appesi ai muri degli uffici pubblici. Nelle nostre città l'immigrazione clandestina ha raggiunto livelli altissimi e le sue organizzazioni hanno trovato il loro paradiso. Marco. Vorrei, come Francesca, iniziare l'opera di disintossicazione da Berlusconi. Ma nella mia città non c'è la Coop. Potete chiederle di consigliarmi una valida soluzione? Lettera firmata. La vostra ascoltatrice dice di avere una figlia adolescente alla quale vieta severamente di contaminarsi con tutto ciò che ruota attorno a Berlusconi. Io ho conosciuto personalmente un medico di Pescara che si comporta esattamente allo stesso modo. Suo figlio, ventenne, ha la foto di Mussolini sul display del cellulare e un calendario di Mussolini, ne esistono diversi, in camera. Della disperazione di suo padre se ne ride. Che tristezza questa Italia. Ci fossero delle persone che badano solamente al nocciolo delle cose. Sarebbe così facile vivere. Arrigo. In questi ultimi tempi di crisi, sento sempre più frequentemente parlare di cali aziendali di circa il 30%. Questo vuol dire riduzione degli investimenti e riduzione del personale. Molti pensano che il livello occupazionale non tornerà più ai livelli pre-crisi, o se ci tornerà, ci vorranno parecchi anni. Non sento però più parlare dell'impatto che l'arrivo dell'euro ha avuto nell'economia italiana. Ecco qualche esempio. Ci siamo tutti dimenticati degli aumenti spropositati di alcuni beni di consumo, avvenuti durante la fase di passaggio tra lira ed euro. 10 anni fa un caffè costava 1.300 lire e il costo aumentava mediamente di 100 lire ogni 3 o 4 anni. Ora un caffè costa 1 euro. Mi ricordo che si trovavano caramelle da comprare ai bambini che costavano 50 lire. Col passaggio all'euro non si trova nulla a meno di 10 centesimi. Stiamo parlando quindi di quasi 200 delle vecchie lire. E questo per quanto riguarda solo piccole cose. Ma vi ricordate quanto costava la cara vecchia Panda della Fiat? Se non ricordo male, costava meno di 10 milioni di lire. Ora ci vogliono 10.000 euro, quasi il doppio. Vi ricordate i saldi di capi firmati? Tutto a 20, 10, 5.000 lire. Ora c'è tutto a 20, 10 o 5 euro. Anche qui, quasi il doppio. Il passaggio all'euro ha impoverito la maggior parte dei lavoratori. All'inizio molte persone non avevano la percezione del valore dell'euro, a causa, secondo me, della mancanza di banconote da 1 e 2 euro, e spendevano a destra e a sinistra quelle monete che fino al giorno prima valevano 2.000 o 5.000 lire. Una volta, nel portamonete, si potevano trovare 3-4.000 lire. Ora, avere 10 o 20 euro è un attimo. Ci sarebbe da parlare anche delle liberalizzazioni che hanno portato un aumento dei prezzi e un peggioramento di alcuni servizi. Vedi ad esempio il prezzo della benzina, delle assicurazioni, dell'energia elettrica e del gas, eccetera. Tutto questo disequilibrio ha causato una concentrazione di denaro nelle mani di pochi a scapito di molti. Si continua a tenere in piedi un mercato drogato dagli incentivi, che non fa aumentare la concorrenza e non porta a sviluppi tecnologici. Si è persa per strada la funzione della polis. La casta si è arroccata nei suoi privilegi e i suoi obiettivi non sono più il benessere dei cittadini, ma il cercare continuamente di aumentare e consolidare il proprio potere. Massimo Cesena. Vorrei intervenire sulla proposta fatta dalla Lega di istituire degli albi regionali degli insegnanti per evitare trasferimenti da una parte all'altra del paese. Se un corpo docente è valido, non credo abbia importanza da dove venga. Meglio un insegnante bravo proveniente dall'altro capo del paese, di uno del posto, ma che è stracco. Però poi mi vengono in mente i racconti delle tante persone che lamentano supplenze a più non posso, perché il titolare di cattedra non torna dalle vacanze, adducendo problemi di salute, mentre tutti sanno che si tratta solo di un vizio dovuto alla scarsa voglia di lasciare il paese natale. Mi viene in mente come un regolamento assurdo costringa insegnanti a spostarsi di centinaia di chilometri per accettare una cattedra, mentre localmente ci sarebbe già un candidato, anche se purtroppo non era il suo turno in graduatoria. Vorrei ricordare come nello Stato federale più antico del mondo prenderebbero a calci un insegnante che, tornato a casa per una festività, poi bigia l'insegnamento per qualche mese, adducendo improbabili malattie. Diciamo, per concludere, che il federalismo a scuola sarebbe una non questione in uno Stato normale. Da noi potrebbe correggere alcune storture. Roberto. Il movimento delle persone serve alla politica economica. Se tutti stanno fermi, i soldi non si muovono. La Lega non si rende conto che ormai il Nord è sommerso dagli stranieri, non dai meridionali. Cesare. Al di là dei progetti della Gelmini sugli insegnanti regionali e di tutte le aspirazioni dei leghisti, l'Italia è più unita di quanto sembri. Guardiamo il primo atto di Caldoro in Campania. Bloccare le demolizioni e condonare tutto il condonabile. 1500 abusi almeno. E a Milano? Niente alberi di piano e abbado. Il comune, da sempre larvatamente ostile, è riuscito nell'intento. E mettiamoci anche una scelta, come quella di Cota, di dare i parchi all'assessore che si occupa di commercio fiere e non a quello che si occupa di ambiente. I parchi come qualcosa da mettere a profitto, impiantandoci qualche resort o qualche attività redditizia per i soliti amici, vecchi e nuovi. Perché un'area libera da edifici, impianti, eccetera, mette a disagio, così come un eccesso di alberi in città. Alessandro. Da qualche mese l'INPS consente, accedendo al sito internet dell'istituto, di ottenere, oltre all'estratto conto contributivo, anche l'importo presunto della pensione. Lodevole che finalmente un ente che gestisce il mio denaro si sia deciso a comunicarmi quanto me ne restituirà. Peccato che i coefficienti di trasformazione non siano aggiornati, per cui l'importo va decurtato come minimo del 7%. Non viene specificato se si tiene conto dei redditi futuri e, se sì, con quale progressione. Non viene altresì specificato il livello del PIL presunto per i prossimi anni. Come illustrato ampiamente dagli inserti economici dei quotidiani negli ultimi mesi, l'andamento negativo del nostro PIL nel solo anno 2009 produrrà un'ulteriore sforbiciata fino al 10% per i più giovani. È troppo chiedere che in questo paese tutti facciano il loro mestiere con un livello di professionalità accettabile? Costantino. Come mai pochi mesi dopo avvenimenti catastrofici come i terremoti di Haiti e Cile non se ne sente più parlare? Dopo le prime ondate di notizie, basta, non si sente più niente. Come se la passano quelle popolazioni? Non si potrebbe ogni tanto andare a vedere com'è la situazione? Maria Luisa. Si continua a parlare di stabilità finalmente raggiunta per i prossimi 3 anni, che consentirà di fare tanto, tutto. Ma ci dimentichiamo che negli ultimi 10 anni il centrodestra è stato al governo per 8.